sono le 18. Tocca a me, tocca a me. Vado, vado. E mondo difficile, però M2O. Beccati ciò. Martedì 13 giugno 2006. Questi sono i passi del cammino di Gigi D'Agostino. Sono mai stato così bene in un parcheggio di un supermercato come oggi, appena appena dopo le 18. Grazie e buon lavoro, Melo. Grazie a te. e buon parcheggio. You better watch your step. You must be on your guard and take it slow. And promise me, be careful what you do. Be careful. I know you're strong. I know you'll make it. Se sapevate come mai la nostra nazionale portava la maglia azzurra e invece che col nostro tricolore, mi avete risposto in 48.000 e quindi vi ringrazio. Indicativamente avete scritto più o meno tutti la stessa cosa, a parte chi ha ipotizzato cose del tipo perché il mare è blu o così, questo tipo. Beh, dati che ho raccolto quindi sono, in sintesi, la maglia azzurra prenderebbe quindi spunto dalla bandiera italiana dei Savoia, vabbè, che aveva a fianco del tradizionale tricolore una fascia azzurra, vabbè, ma anche se questo azzurro derivasse da quella famiglia lì, no? Comunque sia, cosa c'entra? La mia domanda era diversa. Per quale motivo la squadra di calcio che rappresenta l'Italia ha una maglia di colore blu, azzurra, quando invece la bandiera che rappresenta l'Italia è rossa, bianca e verde? Ci sarà stata anche una famiglia che all'epoca regnava e tutte queste cose qua, vabbè, ma nella storia quanti hanno regnato? E allora ognuno aveva il suo colore e quindi dovrebbero portare una maglia tipo quella di Arlecchino. Io vorrei risposte concrete. Sono i passi del cammino di Gigi D'Agostino.

Sono Martina. Dedico a Sara la nostra Hold On, in attesa di potercela ascoltare e ballare insieme quest'estate a Rimini. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno, ore 18, il cammino di Gigi D'Agostino. Sintonizzatevi qui, se no mi cacciano via e poi è un casino dopo.